non è neanche confrontabile al 7003, anche perché il 7003 c'è un livello di selettività da paura, filtri tutti regolabili a cogonno, e poi una sensibilità lo stesso notevole. Quando l'ho visto e ti metti a giocare con i filtri, se proprio c'è una stazione vicina, non ti fa un tubo. Sì, sì, ormai, anche se devo dire, adesso stanno puntando con questi sistemi, è tutto esterno, tutto fatto col computer esterno, eccetera, eccetera, e lavori col computer tipo le chiavette, però adesso stanno utilizzando tutti questi sistemi interfacciati col computer, ormai non c'è più niente di là, utilizzi un piccolo coso della parte finale, e tutto il resto fai col computer. No, purtroppo è così. Però ripeto, la tecnologia sicuramente di un apparato, di un trasmettitore di nuova generazione è altissima, però se tu la paragoni a un televisore LCD che prima 10 anni fa ti costava un mezzo appartamento, adesso te li tirano a faccia, da 150 euro sino al topo di gamma che arriva a 2000 euro per dire un 65, 80 pollici, 4K con tutte le funzioni immaginabili, e un pannello LCD sicuramente di quelle dimensioni ha un costo rispetto a tutto il resto che c'è dietro, e qua ti fanno pagare un apparato ottimo, eccellente, tutto quello che vuoi, lo paghi 5.000 euro. Sono questioni commerciali anche dietro. Sono questioni commerciali. Un interrogativo, ma perché tu ti vorresti comprare un apparecchio di quel tipo? No, sicuramente dovendo comprarmi un apparecchio ti prenderei uno di quelli. Qualità prezzo secondo me non esiste, me lo stai confermando tu che ce l'hai, è un ottimo, eccellente apparato. Ho visto tutte le recensioni, a parte i soliti imbecilli che ci sono, tipo Porsche e Ferrari, c'è quello che dice che la Porsche è meglio e la Ferrari è una cagata, o viceversa, come quello che è fissato con la Icomo ed è una cagata la IAESU, oppure viceversa. Cioè ci sono questi forum, li ascolto fino a un certo punto. Io uno invece cacchio lo prendi, lo provi, ti fa vedere, mi guarda cosa fa qui. Non è inutile trovare il pelo nell'uovo, perché l'apparecchio perfetto non esiste e non esisterà mai, perché se vogliamo trovare cose di superiori dobbiamo andare sul professionale, ma non è per le tasche normali di un utente normale, per cui parliamo di cose amatoriali e più o meno secondo me ci equivalgono tutti. Adesso c'è il topo del topo, tutti stanno vantando questo IAESU FT101 che è numero uno in assoluto. Ho visto delle prove comparative e addirittura in certi versi è meglio la Icom, dicono che certi tipi di segnali, ho visto delle prove di trasmissione e di ricezione e si equivalevano, quasi nessuna differenza, e per certi versi la Icom era leggermente meglio. Se tu senti quelli che hanno IAESU dice che non ce n'è per nessuno. Sì, guarda, c'è molto campanellismo in queste cose, poi anche sulle recensioni c'è sempre il dubbio che dietro non ci sia la casa che magari ti omaggia di qualche regalino e così via. Secondo me l'unica cosa, anche se ovviamente non tutti lo possono fare, ma è quello di provarli, di vedere di personali differenze, e allora riesci più un po' a capire i pregi e difetti, perché tutti hanno pregi e difetti, tutti, però il migliore è sempre quello che ha più pregi che difetti, ovviamente. La IAESU la vedo un po' così, sta facendo troppi apparati che sono, come dire, logorroici, dai, non sono delle cose semplici di pronto utilizzo. Lì, come infatti Messaglia la sta battendo proprio su quel campo lì, sul campo innanzitutto dei menu, quasi tutti, anche io faccio uno IAESU, il D100 col Fusion, ma guarda, faccio veramente fatica a entrare nel menu. Se voglio fare qualcosa di diverso mi devo appentare, leggere da capo il manuale, capire come fare l'impostazione, perché devi aprire 3-4 finestre, una cosa allucinante, pure un apparato abbastanza moderno. Con l'ICO invece una cosa molto più agevole, questo è molto, molto importante quando devi lavorare di fretta, capito? Sì, assolutamente, probabilmente più intuitivo, più corso. A me piacciono, ripeto, tu vedi la Kevud Vali non si aggiorna continuamente come la I, come la Iaesu, che sono sempre in guerra, ogni anno c'è uno nuovo. La Kevud sono detto le 1 ogni 10 anni, ma quello che ti toglie ogni 10 anni è il top, perché prima ti avrà tolto il 10-2000, gli altri sono venuti 3-4 anni dopo. Poi ti ha tolto il 990, gli altri si sono aggiornati dopo 3 o 4 anni. Quando è uscito il 940, gli altri erano tutti indietro. È sempre stata, al momento che ha fatto l'apparato, un peluzzino più avanti di tutti, però poi vive sugli allori, si ferma lì, lo tiene 4, 5, 6 anni, e poi, al contrario di questi da Icomo, che giocano sul micro volto di sensibilità, perché io ho 005, e a te ti faccio 003, così ti faccio vedere che io lo faccio lì, giocano su quel fatto lì. Mentre invece tu ti guardi questo Motorola, c'ha due manopoli, una grande per il volume e una grande per girare i canali HF, stiamo parlando. Quando prima la portante vedi 120 watt e 120 watt ti dà, cioè siamo su livelli, lo schermo è grande, visibile, con i numeri, però è essenziale, c'è quella cosa tipica del professionale che c'è anche la tastiera, però tutto è essenziale, serve per fare quelle cose e boh, poi in trasmissione fa quello che deve fare. E lì la differenza, capito? Niente, guarda, nel 2000 le ho sempre contestato una cosa, che è troppo, troppo, troppo, mi sembra un albero di Natale con tutti quei tastini, tastetti, manopoline, piccoli, va. Sì, hai detto bene, troppa, troppa roba, a parte se uno ha pochi problemi di vista è ancora troppo complicato, perché i tastini ti devi avvicinare e leggere, a meno che uno, per dire, non c'ha esperienza, lo usa quotidianamente, riesce a trovare gli occhi chiusi, però se una persona anziana, un vecchio radioamatore che non vede bene, non c'ha l'illuminazione perfetta della stanza, cacchio, se ne deve uscire gli occhi, se ne escono gli occhi. No, ma hai detto bene, quegli apparati di quel gradino superiore all'amatoriale, professionale, a me sono accorto io l'altra settimana, un paio di settimane fa, come ti avevo detto, sono andato da quell'amico che lui è fissato con tutta la roba militare, marina, eccetera, eccetera, non l'avevo mai visto, un ICOM professionale marino HF da 250 watt, ma quelli li puoi tenere accesi 24 ore su 24 e non li fai neanche, non li pieghi neanche un pelo, no? Quegli apparati, stiamo parlando di cose molto ma molto costruite in modo completamente diverso. Adesso questi qua, se tu li tieni accesi per qualche ora, devi stare attento perché la ventola si accende piano piano, se non c'è dissipazione la ventola, se non è distante dipende dal muro o da dove riesce l'aria, scalda e ce lo butti. Ah, guarda, hai parlato proprio di quelli navali in realtà sono sempre accesi, cioè guarda, per certi versi lo potrebbero anche togliere il tasto d'accensione e lasciare solo l'apparecchio acceso quando si attacca la corrente, perché quelli rimangono sempre accesi, non possono essere spenti perché devono sempre fare ascolto. Quelli HF sulla 2182, per le altre frequenze sul 16, ma tu capisci che è una nave che ne so, per arrivare già a Civitavecchia ci mette un giorno, poi deve caricare eccetera, ripartire, fa questa tiritera, per non parlare delle navi che poi vanno in Atlantico e così via, sono apparati che rimangono sempre accesi, impensabile spegnerli, e ce ne sono sempre, siccome ho parlato con uno che ne installa, sempre due, cioè minimo due, e poi ce ne possono essere anche altri di riserva, spesso sono anche su determinate navi muniti anche di ripetitori, nel senso di ripetitore microfonico e audio, un po' come si usa nella nave da guerra, sono sempre interrottamente accesi. Sì, infatti questo mi ha colpito, la costruzione esteticamente è orrendo, nel senso abituati a avere tutte le lucine, però la funzionalità, la facilità d'uso, i tasti infatti in un modo completamente diverso da quelli che trovi nelle radio chiamiamole amatoriali, dai. Noi le chiamiamo, molti le chiamano radio professionali, ma sono radio amatoriali, professionali è tutta un'altra cosa, è come quando tu prendi un oggetto, un trappano di quelli che puoi prendere la Lidl e poi vai a comprarti un Bosch o non lo so, quei macchini proprio per uso gravoso che li puoi tenere accesi 6 ore continuamente e non li bruci. Se tu prendi un trappano di quelli che ti posso dire la Lidl, dopo mezz'ora di uso iniziano a scaldare, se hanno il coso termico si bloccano, se no ce li butti via. Sì, anche lì c'è da fare un discorso, perché io c'ho proprio il Bosch, la linea professionale, a volte si blocca, però vabbè, la Bosch ad esempio ti fa due linee, c'è quella di consumo e quella professionale, io ho quella blu, credo che sia quella professionale, poi c'è anche comunque anche quello della Lidl, visto che si difende bene, ne è uno che già da un bel po' di tempo che fa il suo lavoro in una maniera eccellente. Poi ovviamente bisogna vedere come si comporta se lo metti sotto pressione. Per dare lo stesso, in realtà questa definizione professionale, io radio amatoriali professionali non ne conosco. Conosco le radio professionali invece HF o anche VHF o HF utilizzate in campo amatoriale, che è una cosa diversa. Nel mondo amatoriale, in tutta la produzione, ICOM e compagnia cantante, secondo me radio professionali, come d'altronde lo sanno anche loro, non ce n'è, ci sono radio per radio amatori e non sono professionali assolutamente. Sì, è un uso diverso, il professionale è un uso gravoso e continuativo, mentre la amatoriale quanto può durare un corso? Guardate, c'è sempre interruzione, riprendi, parli, anche se stai 3-4 ore parlando, esagerato, perché normalmente non si sta mai così tanto tempo, a meno che non fai dei contest, dura un corso, può durare mezz'ora, un'ora, mediamente parliamo. Infatti, è per quello che a me mi piacciono le radio professionali. Guarda, tutte quelle che tu vedi, le guardi dietro, quelle VHF soprattutto, VHF eccetera, hanno tutte queste ampliazze di ventolina, proprio perché sono tirate al massimo e così via. Tu ti guardi le altre che ho, che sono la maggioranza, sono professionali, poi al massimo della potenza rimangono fredde, quindi tecnicamente potrebbero rimanere in trasmissione anche per ore, hanno una resistenza agli altri SVR micidiale, quindi sono un altro pianeta. Sì, si è detto bene, come gli alimentatori, la stessa cosa, l'esempio più classico e eclatante sono gli alimentatori, ormai sono tutti con queste ventole, non esistono alimentatori, e oggi ne ho visto stasera uno, un vecchio ZG degli anni 80, anni 70, con dei dissipatori grossi, un 40 ampere, senza ventole. Quello che c'è io ve l'accetto, che è un 60 ampere continui, ma ne può dare 120, perché ho visto cosa monta di componentistica, può dare 120 ampere, non ha ventole, non scalda un filetto, non scalda niente. Così bisogna, è inutile che tu per dire, c'ho questo 10 ampere, gli metti la ventola e gliene fai dare 15, lo stai sovraccaricando e lo bruci. E poi purtroppo, come tutte le ventole, essendo un sistema diciamo accoppiato con la polvere, si impregnano, diventano, si sbilanciano e quindi tendono a fare sempre il rumore. Infatti se tu guardi le ventole veramente buone possono molto care. Sì, assolutamente, ma poi oltre che la ventola, la polvere che entra va sul componente, è ancora peggio, perché si cementa sopra e fa ancora effetto più complicato. E beh, a lungo andare sì, poi. Vabbè, certo che noi la lista dei desideri sarebbe grande. Robert Schwartz, con schermo a prova di proiettile, insomma, tanti bei giocattoli, ma non è roba per noi, Paloma non è roba per me, io ce l'ho la roba costosa, ma ci ho messo parecchio per averla. E adesso bisogna avere i giusti contatti. Sì. Certo che quando tu vedi quella radio lì, alcune militari che mi sono capitate, che sono in onda dagli anni 70, hanno visto probabilmente anche la guerra, sono state in magazzino, sono state usate per addestramento, eccetera. Uno dice, caspiterina, un amatoriale, al primo giorno di Naya sarebbe morto. Però devo dire una cosa, nell'amatoriale, quando c'è stata la guerra del Golfo, gli Stati Uniti nel deserto, eccetera, eccetera, ho visto tante stazioni di quelle con la tenda, eccetera, eccetera, piene di 9.40, sono rimasto sorpreso, ho detto cacchio, i 9.40 stanno utilizzando gli americani in momenti, diciamo, in situazioni gravose, polvere, caldo, eccetera, eccetera, un 9.40, e ne ho visto più di una stazione con 9.40. Ma io invece ho visto alcune voci di quelle cose, guarda, quelle non ne so e non ne capisco l'uso che potevano fare nell'aspettare quel servizio, però guarda, vedendo quelle foto c'ho tanti dubbi. Tu figurati guardando anche gli apparati da adesso che si contraddistinguono in maniera netta da qualunque apparecchio amatoriale, sono apparecchi fatti per innanzitutto per un servizio continuo, quindi di lì già punto di domanda. Secondo, poi una cosa prioritaria è che sono tutti apparati rigorosamente con schede dedicate per la criptatura e per la sicurezza. Ma quindi te le immagini le americane che trasmettevano con 9.40 in chiaro e li sentivano tutti quanti, anche attaccandoci dietro un codificatore, decodificatore, sarebbero stati una cagata considerando gli apparati che normalmente usano. Quasi tutti non avrebbero avuto la possibilità della remotizzazione che in quel campo si utilizza spesso. Insomma, un punto di domanda grande è quanto un grattacielo. Sì, sì, l'hai detto bene, a meno che non li trovano come ricevitori per attaccare un altoparlante e farli sentire Voice of America, la radio americana, perché poi si pure l'avesse utilizzata per quello scopo lì che noi non lo sappiamo. E appunto, pensa che utilizzare apparecchi raffrontati a quelli che hanno perduto in Afghanistan, perché consegnati all'esercito afghano, stiamo parlando di 15.000, 20.000 apparati radio, che a me me ne basterebbe anche di valore anche la metà, quindi ti puoi immaginare cosa stiamo parlando. Veramente, cioè, mi viene da sorridere. Adesso chissà che fine fanno le radio. Sì, ma te l'ho detto anche la volta, che spreco, e noi parliamo solo di radio, poi vedi questi barbuti sui cosi, ma non mi viene il nome, del fuoristrada americano lì, mi serve di lince, noi ce li siamo portati via tutti, non li abbiamo lasciati allora. Sugli Hammer, potevo dire, sugli Hammer, li vedi questi barbuti lì sopra le capote, sopra una cosa, per carità. Sì, sì, ma hanno lasciato migliaia di mezzi, elicotteri, ce li hanno sabotati, magari sabotati, è tutta una cosa organizzata di lì. Non sappiamo niente noi ufficialmente di quello che è successo. Pensa che per fornire di quegli apparati radio gli afghani c'è dovuto stare un'azione libera del Senato americano, che ovviamente è stata approvata, e a questi gli hanno forniti di questi apparecchi di ultima generazione. ma guarda, i contribuenti americani non penso che saranno molto, molto, molto contenti. Sì, sono milioni, milioni e milioni di dollari di apparati, che poi sono, anche se ci sono degli appalti di lì, magari l'apparato era al prezzo più basso sul mercato, ma però sono sempre, un apparato del genere costa una migliaia di euro allo Stato americano. Appunto, poi mi viene da ridere quella polemica che hanno fatto alcuni, no, dicendo ma gli avvertiti, questi terroristi, quelli dell'ISIS, questi afghani che hanno degli apparati dell'Itera, lo so, gli apparati dell'Itera sono degli apparati professionali, ma tu vai al negozio e soldi te li prendi, quelli poi se ne vogliono 30-40 glieli fanno lo stesso, Itera, Motorola, qua c'è sul mercato, e poi chissà da dove diavolo ne hanno anche raccattati tutti questi apparati. Poi vai a vedere e ci sono gli americani, eccoli lì, 15-20 mila apparati regalati. Ma sta portando un paio qua in Sardegna, già li usiamo, dai. Ti ho detto che io ho visto i prezzi, ma ne basterebbe la metà d'apparato. Sì, sì, ma mi immagino. Ok, dai, facciamo un attimo il bianco, magari se c'è qualcuno che vuole entrare, perché abbiamo un po' monopolizzato. Avanti sul 10 che vuole entrare. Sono tutti a guardare se è partito. Ehi, vabbè, c'è gente che ascolta. L'altro giorno proprio stavamo parlando di una persona, di qualche persona che ogni tanto dà il colpettino e sta ascoltando. Guarda, ce ne saranno almeno 5 in ascolto, di sicuro. Che non li possiamo vedere noi. Ma li possiamo filtrare. Ce la possiamo immaginare, dai. Sai come dice il Vanazzo, ma no, chi c'ha denti non c'ha il pane, chi c'ha il pane non c'ha denti. È un bel detto. Infatti, quindi chi c'ha le radio ce le ha, che li vorrebbe non ce le ha perché gli altri le hanno regalate. Io ho questo amico, grandicello, che era una persona, un ingegnere, che lui era professore universitario, eccetera, eccetera, molto competente. Lui utilizza solo apparati professionali nautici, non è a lui apparati, quando ha fatto vedere qualcosa da me, ha detto no, io uso altro tipo, altro genere, ma roba magari vecchia, in disuso, di navi, cose del genere, poi forse ci avrà qualche apparato recente, ma pochissimo. Il resto che usa, lui si fa solo maggiormente in CVD. Utilizza questi apparati navali che sono grandi quanto un armadio. E vabbè, sono ampiamente sorpassati oramai. Io meno male non mi è sceso, diciamo, per la testa di comprare quello che volevo comprare, perché mi sono accorto che lavorava, credo, iniziava a lavorare dai 2-3 MHz, quindi mi perdevo la banda di 160 metri, ed era uno Shanti, così si chiamasse, a Canti, dovrebbe essere nelle parti sempre del nord Europa, ed era proprio un mezzo armadio, cioè sicuramente un grosso comodino, e poi c'era la radio che era collegata con questi cavi, che usava anche un braccio alla fare, non mi ricordo quanto ne volevano, erogava credo i soliti 250 watt canalizzazione, la solita nautica. Ma non l'ho preso perché roba di 25-30 kg, e dopo muovete. Io ne ho un paio, siccome sono appassionato collezionista, diciamo, nel mio piccolo, me ne hanno dato qualcuno di questi apparati militari, uno di un elicottero, l'altro di un carro armato, poi ne ho un altro grosso, che l'ho messo da parte, che è talmente grande, è ingombrante, pesava 40 kg, l'ho tirato via, proprio ho messo. Gli altri li ho messi dove non c'è il posto di lavoro, ce ne ho decine di radio di lì, di queste. Oltre che autoradio ci sono queste radio grosse, vecchie, in ferro nero, cacchio, di quelle che utilizzavano forse negli anni 60, periodi di vita. Uno è enorme, c'ha un sacco di manopoline, controcose, che non so neanche a che cosa servono la maggior parte. Sì, di carri, di aerei ne trovi, quelli degli aerei sono bruttini, diciamo, cioè, anche quelli moderni, perché sono realizzati proprio con l'aereo scatolati, molti telecomandati, perché tutti i comandi poi devono andare sul cruscotoli dell'aereo, quindi sono bruttini. Quelli dei carri invece sono proprio essenziali e operano tutti su frequenze che vanno, che possono andare dai 26 ai 46, anche a volte salgono più su ai 70, perlomeno quelli di una certa razza, perché lo standard più utilizzato di frequenza è quella, no? dai 26 fino ai 46-50. Ma poi poco fa tu stavi dicendo con 7003 arrivi fino ai 70 MHz. Sì, il 7003 arriva a 70 MHz. Perché non lo so, perché 70 pareva che fossero autorizzati, poi non lo so se avevano revocato l'autorizzazione, sicuramente saranno importati i militari lì. No, infatti, pensando che non è una frequenza radioamatoriale, ho detto, come mai sarebbe così in alto? Ci voleva anche l'autorizzazione per operare sui 5 MHz prima, perché era debita alla protezione civile, no? E ogni tanto lo sto guardando a Blade Runner, ogni tanto cambiano qualcosa, aggiungono qualcosa, non se ne capisce niente. Poi in certe parti, io pensavo fosse una cosa per tutti uguale, in certe regioni del mondo non si possono usare, in Europa sì, in Francia no, ha detto sì. Ma guarda, stavo leggendo che in Giappone stavano dando la caccia proprio a chi utilizzava i canali alti della 27, ad esempio, perché erano assolutamente proibiti. No, non lo so, mi ha chiesto, c'è un amico Salvatore, quello che è in Austria, mi ha detto, prova a informarti, perché dice sono molto ma molto attenti a queste cose qua, alle frequenze radio, se tu le occupi, ha detto, se si può utilizzare la 27 in Austria, che tipo di frequenza, perché dice io qua baracchini non ne ho visto, vedo antenne radioamatoriali, ma di baracchini non ne ho visto neanche una, ha detto, mi avesse sia libero, ha detto, prova a chiedere, ha detto, e a chi chiedo? Sì, negli Stati Uniti invece il reato di abuso di frequenze eccetera eccetera è un reato federale, quindi figurati cosa ti può capitare. Lì ti mettono dentro e ci buttano la chiave, non so come noi qua, ne hanno fatto di tutti i colori. Che cosa devi stare attento a non entrare in bande aeree, se no guai, di cacchio ti fanno un uovo nuovo, e se ti trovano ti prendo una denuncia, magari non ti fa la galera, ma ti prendo una bella denuncia. Sì, quello lì sì. No, ma poi almeno bisogna, per utilizzare anche certi apparati, un minimo di cognizione, non è accendere e andare, perché poi se fai ascolto ci sarei accorto che certi segnali che sembrano QRM non sono esattamente QRM. Sì, ormai ce ne sono decine di sistemi di cose, di digitale cose, come quel sistema che ti ho chiesto l'altro giorno, che mi hai fatto notare tu, quel canale 15, non riesco a capire che tipo di emissione, perché è una via di mezzo tra la modulazione dell'ampiezza e la banda laterale. Mi avrei voluto provare con l'altro ricevitore, quello tipo la chiavetta, la Malachite o come si chiama, però me lo stanno programmando per farlo mettere sul computer in modo che riesca a vedere, che è troppo complicato da usare su quel display piccolino e touch screen, ma è piccolino, non ci riesci con le dita a usarlo. Infatti me lo sta provando a interfacciare per attaccarlo al computer per vedere con quei sistemi SDR Sharp, perché lo legge, però devi fare in modo che ti riesci anche a sentire, non solo di vedere quello che stai ascoltando, e me lo sta facendo questo amico per vediamo un pochettino come va a finire, perché non so, tu probabilmente c'è l'attrezzatura, forse è un'emissione talmente stretta, non lo so. Guarda, io per quei lavori lì, tra l'altro la mia stazione, lo sai, è abbastanza nuova oramai, quindi è stata terminata tra il 2020 e il 2021. C'ho la bellezza di tre apparati con tutti forniti di controllo di banda, sia in VHF sia in VHF HF, quindi poi quasi tutto lo spettro della radiofrequenza lo puoi tenere sotto controllo. Poi quello che ti dicevo prima, che è australiano della Wind Radio, che facevano questi apparecchietti anche per l'intercettazione nelle ambasciate, li mettevano uno sopra l'altro, che è piccolissimo quanto tre pacchetti di sigarette praticamente. Devi vedere che razza di spettro c'è, cioè a quale velocità, da 0 a 50, vedi? Infatti ti spaventi, no? Perché la parte bassa delle, dove ci sono le broadcasting, vedi tutte queste colonne alte che si alzano, potenti, però quelli più interessanti sono quelli, i segnalini piccoli, piccoli, piccoli, no? E te li scova, è maledetta. Non so se c'è l'apparato adatto, riesce a fare tutto, ma con quelle chiavettine, con le cose che hanno una marea di filtri, controfiltri, selezioni, eccetera, eccetera, ti spaventi, ti stringe, ti allarga, ti espande. E prima devi fare la prova con quelle, anche con queste chiavettine qua, ascolta, perché io la cosa che ho notato, ho provato a spostarmi di un peluzzino, subito perdi. E per dire, se tu sei adesso qua 27.75, io vado 76, 77, 70, non dico 78, 77 riesco ancora a sentirti. Con quello di 75, andavo a 76, tac, e lo perdevi, non capivi più. Allora quelle chiavette lì che tu dici, quelle che riguardano la radioascolto non vanno bene, perché è un motivo quasi ovvio, oserei dire, che non sono in grado di scindere un segnale da un altro. Spesso si beccano tutti i battimenti possibili, immaginabili, e appaiono tanti quei segnali fantasma che le rendono praticamente inutili. Quella che ti dicevo io invece è una radio che è una chiavetta, perché è collegata al computer USB, però è una chiavetta di queste, che delle chiavette insomma ne fa parecchie, anche perché siamo a livelli di costi ben diversi. Ecco, c'è un solo pulsante per accendere e per spegnere, in un involucro stagno di plastica. Poi dentro c'è un contenitore d'alluminio, sono dei ricevitori da spettacolo, veramente micidiali. Tu guardati il sito Win Radio, devo controllare se ci vuole aggiornamento a proposito, ti permettono tutto questo spettro, la paura, che non scappa nessuno lì, proprio non scappa nessuno, se c'è qualcosa di strano lo vedi immediatamente. Sì, poi con tutte l'evoluzione della specie, come si dice. Infatti, io ho visto quello là in funzione, quello per Sirius, eccellente, che costa un'esorbità questo sistema di ricezione digitale, quello è completo, anche se sicuramente adesso ci sarà di meglio, ma quando è uscito era il top. Appunto, tu pensa che il Perseus è nato per fare concorrenza al Wind Radio, che erano tra i primi che hanno intrapreso quella strada. Solo che nel Wind Radio, a differenza del Perseus, c'era dietro proprio una fabbrica che faceva quello, ecco. Faceva modelli di scanner particolari, modelli di antenna anche particolari. Tu pensa che al mio dietro si poteva collegare un oggettino, che però un costo che non ti dico, che te lo portava a lavorare da non più da 0 fino a 50, ma arrivava fino a 3000 praticamente. Dovevi metterci apposita antenna, ovviamente amplificatore eccetera, però cioè il costo già così nudo e crudo costava un patrimonio. Poi si potevano mettere nel programma stesso della Wind Radio i plugin praticamente con tutti i vari sistemi di decodifica eccetera eccetera. Adesso ho visto che sono a prezzi ragionevoli, però non so se siano ancora attuali come sistema, quello che faceva una quindicina di anni fa la ICOM, l'SDR100, non so se ce l'hai presente, quella scatolina, lo stesso con l'interfaccia, li trovo intorno ai 150 euro, sul mercato ci sono. Sì, sì. Guarda, credo che sia uno delle tante ciofecche che ha fatto l'ICOM, proprio delle ciofecche, dalle recensioni non erano neanche quelli adatti a fare quello per cui li avevano progettati, nella maniera più assoluta, rispetto al Perseus, rispetto alla WinRadio, anni luce. Perseus, hai avuto modo di utilizzarlo? Di utilizzarlo no, ma l'ho visto, ma siamo sugli stessi livelli più o meno del WinRadio. La differenza è che WinRadio, diciamo, c'aveva un nome dietro. Poi tu pensa, gli australiani fanno del radio particolare, no? Come ti sarai accorto? Quello che è il marketing australiano, non c'è bisogno di dirtelo io. Beh sì, ce ne sono due o tre marche che credo che siano tutte australiane, non so se la Harris è americana o forse è canadese, credo. Adesso non mi ricordo, c'è Harris, Barrett, Kodan, forse anche la Kodan è australiana, poi c'è la Dacron, poi vabbè c'è la nostra, la Selex Leonardo, c'è anche la Boeing che fabbrica radio, che è quella che fa gli aerei, e poi qualche altra, ecco, che adesso non mi viene, probabilmente cinese o di quelle parti lì. Quello che ho visto che fa, anche se non li ho mai visti davvero, però ho visto solo i video, quella Elecraft, quella cosa americana, lo stesso fatta da un radioamatore tanti anni fa, e costruisce degli apparati allucinanti. Sì, ma qua stiamo parlando di case che devono di colpo sfornare 10.000 apparecchi, 20.000 apparati, capito? Sono per grandi commesse, mica ne vendono uno o due. No, le classe non dico ne vende migliaia, però cioè centinaia di migliaia, no, però ho visto abbastanza il K1, ho visto il K3 fanno, sono degli apparati concorrenziali con lì come gli ISU di top di gamma, costano un sacco di soldi, sono molto funzionali. Non so se qua qualcuno ce l'abbia qua a Sassari, però arrivati radioamatori di altissimo livello li hanno presi quelli. Lo so, però non so se siano a livelli di quella là, di quella là. Credo ci sia la Coda, anche la Barrett, che li fanno anche per uso tra virgolette commerciale civile, cioè sono più o meno gli stessi apparecchi, però le manca la parte, diciamo, sofisticata per l'ampliamento di alcuni sistemi tipo criptatura eccetera, che fanno anche per uso commerciale tipo per le organizzazioni umanitarie che lavorano in quei paesi in cui c'è l'esercito, lunghe distanze e così via, e sono ugualmente tutte a norme diciamo di resistenza particolari, sono sempre professionali, anche una di quelle andrebbe benissimo. Ma in Italia c'è lo stesso professionale, la Telettra, ho visto che fa un sacco di roba. Guarda, Telettra, Otte, ex Otte, no? Officine telecomunicazioni elettroniche, quella che faceva gli apparati 400 per i carabinieri, tutte quelle lì che conosciamo di nome sono passati tutti assorbiti dalla Finmeccanica, che è la Selex Leonardo, che fa dalle navi fino ai carri armati, alle radio, ai sommergibili, insomma tutto il militare passa di lì ed è una delle, non so in che posizione a livello mondiale, ma è tra i primi, gli elicotteri top in cui ha raggiunto parecchi record di vendite. Fa anche aerei, anche pezzi di aereo sotto licenza, tipo i C-130 J, o fabbrica anche gli altri, ma gli Spartan, che anche gli americani sono comprato, magari da trasporto, insomma già, non parliamo poi delle fregate che fa, fregate non come fregature, fregate come navi, armamenti, tanti armamenti. Sì, no, fregate siamo a livello mondiale, gli elicotteri non ne parliamo, ma nelle telecomunicazioni avevamo delle grandissime ditte che esportavano in tutto il mondo, poi adesso piano piano, come tutte molte, sono scomparse, molte sono state assorbite, perché quando c'è stato il boom delle radio private, la liberalizzazione, c'erano tanti marchi, l'Itelco per dire, ha costruito in tutto il mondo a livelli altissimi, cioè di qualità eccelsa, poi non l'ho più sentita nominare. Ma guarda, su molte cose fortunatamente siamo rimasti a un livello alto. A noi ci hanno veramente rovinato tanti imprenditori, che se ne dica, che sono andati a fare certe produzioni in Cina, in altri paesi anche europei tipo Romania e compagnia cantante, ma soprattutto in Cina. Quando sono andati in Cina, ad esempio, per noi eravamo anche leader in apparecchi per l'agricoltura, per in apparecchi che costruiscono altre apparecchiature e così via, non eravamo leader insieme alla Germania. Questi qua sono andati lì per sfruttare la gente, perché ovviamente ce l'avevano appresi da fame. Cosa è successo? Che i furbacchioni hanno iniziato a fare come hanno fatto con i russi, col Kalashnikov, no? Che l'hanno imitato, ovviamente era più scadente, tutto quello che ti pare, però se lo facciamo pagare la metà, e così hanno fatto, ci hanno rovinato il mercato. Quindi noi potremmo, se non ci fossero stati questi comportamenti, probabilmente essere molto, ma molto più avanti di tanti altri paesi dell'Europa stesso. Mentre invece siamo andati a prostituirci con la Cina e quelli ci hanno fregato. Sono politiche commerciali sbagliate, però ci sono anche l'altro risvolto della medaglia, perché ti faccio l'esempio della moto, la moto Benelli. La moto Benelli è prodotta in Cina, però costruita, ingegnerizzata in Italia. Questa moto viene costruita totalmente in Cina, tutte le parti, viene portata qua a Panigale, il Borgo Panigale, controllate a Scaglione, diciamo, c'è il controllo di qualità e le verificano. E qualitativamente sono delle moto di grandissimo livello, hanno un prezzo molto basso rispetto a prendere un BMW, una Honda, eccetera, eccetera. E sta di fatto la Benelli è rinata adesso ed è il primo marchio in quella fascia di prezzo, cioè è la prima moto più venduta in Italia in quella categoria lì, e non è poco, perché la Benelli era scomparsa da decenni, eppure adesso piano piano adesso vogliono riportare in vita anche la Lover, l'ho sentito. Sì, ma qua parliamo di tempi recenti, io sto parlando di quando eravamo leader in tanti prodotti che poi ci hanno copiato, ecco. Adesso c'è anche un'altra auto che fa anche un'auto, una marca di auto, la DG credo che si chiami, o la DS, non ricordo. DR. Non è centrato uno, la DR, che fa anche SUV o fuoristradini, quello che sono. Allora, i cinesi nelle macchine ancora devono farsi l'esperienza, ma come ci hanno fatto l'esperienza i coreani, non so se si ricordi le vecchie macchine coreane di 15 anni fa, erano ridicole. Adesso le coreane sono le uniche macchine al mondo, a parte qualche caso, una casa americana piccolissima, che ti dà 7 anni di garanzia la Kia e 5 anni la Hyundai, e fanno i prodotti, ti posso garantire, presi sotto mano, perché io le vedo tutte per il mio lavoro, ti posso dire, presi i difetti di qualunque macchina, sono costruite veramente bene, ottimi prodotti, anche a livello estetico non sono male, e così faranno la fine i cinesi. Piano piano usciranno le macchine cinesi di un certo livello qualitativo e soppianteranno il mercato, come stanno facendo le coreane. Le coreane stanno ammazzando il mercato, hanno ammazzato prima i giapponesi, adesso le coreane stanno ammazzando, e tra qualche anno vedremo le macchine cinesi, come è successo per i cellulari. E quindi i cellulari, tutti i cellulari cinesi, è ridicolo. E il top adesso sono i cinesi, qualità prezzo. Come sempre. Invece la quella di lusso, che sono, si vedono anche in telefoni americani, eccetera, la Lexus di dove? La Lexus è il marchio d'elite della Toyota, come può essere la Lancia per la Fiat o l'Audi per la Volkswagen. È il marchio d'elite, un marco più prestigioso, più curato, eccetera eccetera. La base di partenza è sempre Toyota, però le rifiniture sono di livelli superiori. Sarebbe la Mercedes asiatica, dai. Per cui, no, invece noi ci dovevamo mettere in testa una cosa, noi l'Europa in generale, è tempo di riniziare a costruirci i processori, perché abbiamo lasciato troppo campo libero prima agli americani e poi ai cinesi. Le menti ce le dovremmo avere, perché anche l'Italia, lo sai, siamo in prima linea facendo cose spaziali, apparecchiature spaziali eccetera, però iniziare anche a occuparci del settore più strettamente nazionale popolare, tipo autovetture e quelle cose lì, perché se continua così corriamo il rischio di perdere campo nella tecnologia anche. Però c'è da dire una novità, lo sapevi, penso che lo sai, il più grande produttore di processori, microprocessori al di fuori dei paesi asiatici in Italia, in Calabria, non so se lo sai, e anche in Puglia, il più grande produttore dopo di loro, non fa numeri assurdi come li possono fare i cinesi o i coreani, perché i coreani ancora forse sono leader sui processori, il primo in Europa e in Italia, in Puglia, il più grande produttore di processori. Il problema è la materia prima, perché le materie prime non ne abbiamo noi, e se ti bloccano le materie prime, il silicio eccetera eccetera, noi non facciamo niente. Come si è tutto bloccato, tutto il mercato è fermo dei processori, le case costruttrici, l'unica che riesce ad andare avanti è la Tesla, che non ha subito cose o problemi su questo fatto. Le centrali elettroniche infatti hanno carenza di centrali elettroniche perché non ci sono i processori. Il problema non è tanto il silicio, che è abbastanza reperibile, il problema sono i collegamenti al silicio, che spesso sono in micro lamine d'oro, quelle cose lì. Sì, sì, ma poi ci sono le terre rare, tutti quei materiali lì, ma noi ce ne accorgiamo anche dai tintometri, le basi, per dire, c'è stato un aumento del 25% in un anno ed è una cosa spaventosa, considerando che l'inflazione non è alta, nel senso siamo intorno al 3%, avere un aumento del 25% della materia prima, cioè delle polveri per fare una vernice, è tantissimo. Le polveri sono tutti dalla zona dell'est, tutta dalla zona della Cina, eccetera eccetera, queste per fare i pigmenti, per fare le basi. Sì, ma anche i cinesi hanno paura, perché loro sono vissuti fino adesso di livelli di standard economico altissimo, sono arrivati al 18%, al 15%, una cosa pazzesca, contro uno stato normale che è allo 0,2-0,4. Quindi tu sai che un corridore c'ha un suo massimo in quell'età, poi man mano che diventa anziano non può tenere quei ritmi, e così capita la Cina, è per quello che sta ricorrendo l'Africa eccetera, ma c'ha dei consumi così alti per produrre così tanta roba che no, è probabilmente non tutta necessaria, che correrà il rischio di finire Sì, sì, è vero, ma la Cina, noi siamo sempre convinti, la maggior parte, la Cina non è in buone acque, anche se stanno svendendo, nel senso vendendo tanti prodotti, eccetera, eccetera, le esportazioni sono esageratamente grandi, però non è tutto oro ciò che lucida, sono proprio al limite, sono arrivati al limite, come ho detto più. Soprattutto c'è concorrenza adesso dei paesi ultra poveri, perché il Vietnam e l'India soprattutto sono quei paesi che i più grandi concorrenti del coso, dove la manopola non costa niente. Prima la Cina ha ammazzato il Giappone, adesso la Cina deve stare attenta all'India, che è una nuova potenza economica paragonabile alla Cina, perché tutto l'abbigliamento viene costruito e prodotto in India, e non è poco, perché i cinesi hanno iniziato con l'abbigliamento, calzature, eccetera, eccetera. Tecnologia ancora elettronica, sono molto indietro, ma se tu li togli una fetta del mercato del 60%, non so quanto sia, però di così grande quantità, lo sai cosa vuol dire? Che la indebolisci tanto la Cina, tutte le industrie che prima producevano tutto l'abbigliamento era quasi tutto in Cina, adesso non sono più loro leader nel mercato, è diventata l'India, Bangladesh e Vietnam, e non è poco. Piano piano anche i cinesi dovranno svegliarsi, i cinesi, dico la popolazione cinese, perché hanno tanti problemi da risolvere, perché tutta questa cosa, tutto questo ingrandimento gigantesco che hanno avuto è costato parecchio in termini di ambiente, in termini di disparità tra la popolazione e così via, tra la Cina rurale e la Cina industriale, e quindi sai, prima o poi questi nodi vengono aperti. La stessa cosa, io ho visto filmato su un'India, è una cosa terribile, lo sai gli indiani poveri come si considerano? No, si considerano polli a cui tirare il collo e basta, e gli altri la loro condizione la considerano un karma praticamente, cioè, tu sei diventato povero perché un'altra vita probabilmente ti sei comportato male e adesso ti devi rassegnare a fare il pollo. Tutto lì, bella cosa, vero? Sì, no, così, lo so, ma anche i giapponesi sono per loro la povertà, quando uno è povero, il barbone, cioè è come una malattia, vedi, è un senso, cioè hanno una dignità diversa da noi, tu per dire ti arrangi, se te ne vai a mendicare, vedi, in Giappone è peggio che c'è un tossico in casa, un come si chiama, un tossicodipendente, è una cosa, perché hanno molta dignità le cose. L'India, io ho visto un servizio sul report, dove ci sono le più grandi industrie farmaceutiche del mondo, sono in India, tutte quelle che producono tutti i farmaci. Quando io ho visto i farmaci, parliamo di farmaci, il 90% dei farmaci prodotti nel mondo, di quelli equivalenti, come si chiamano, quelli di non di marca, per l'aspirina la fa, si chiama, come si chiama, Sanipirina, per fare un nome, ed equivalenti, i farmaci generici, il 90% sono prodotti in Cina e in India. Ho visto un servizio sul report, se ti capita cercatelo, e tu dopo che ho visto quella roba lì non ne compro più di farmaci generici, che è una cosa spaventosa, cosa combinano per fare gli esperimenti, per dire sulle persone, con i poveri, dicono beh, dobbiamo prendere questo farmaco, prima di metterlo in commercio bisogna fare degli esperimenti umani, e prendono dei volontari e li pagano per dire $10, perché loro $10 sono come per dire 10.000 euro per noi, per fare un esempio, e li mettono queste prove come capie, ma tu devi vedere gli effetti collaterali prima che arrivino al farmaco. Mi hanno fatto vedere l'inquinamento di questi fiumi rossi, blu, verdi, cioè va, fiumi più grandi del Po nostro, per dire, laghi completamente inquinati di queste sostanze che non ti puoi neanche avvicinare. Non so quanto è il tasso di mortalità di questi posti qua, anche se devo dire che sono strapagati rispetto alla media della popolazione, mi danno cifre molto ma molto più alte della media, però tu devi vedere quel servizio, tu quando vedi quella cosa dici non è possibile che tutti i prodotti della Bayer, della Basf, della Cypher, o come cavolo si chiama, sono tutti prodotti di lì queste cose, su Vicenza producono questi farmaci equivalenti, ma è una cosa mai vista. Ma infatti è sempre lo stesso discorso, no? Loro si credono proprietari di quelle aziende, in realtà i proprietari sono gli stessi che probabilmente sono qua, quindi di lì è una cosa di mano d'opera, adesso stiamo in salvarsa, non c'è altro, se no non avrebbe senso andare in quei paesi che sono distanti, che c'è tutta la logistica da supportare solo per portare qualche farmaco qua. È una questione proprio di sfruttamento, è semplice sfruttamento dell'essere umano che non conta niente, è solo braccia, ecco. Adesso prima o poi stanno già comparendo in molte fabbriche, saranno tutti sostituiti dai robot, quindi non esisterà più il problema di geolocalizzare, come dice qualcuno, per il semplice motivo che chi lavorerà saranno le macchine, quindi di conseguenza la società che conosciamo adesso dovrà per forza di cose essere rimodulata in un modello diverso, ecco, perché operai non ci saranno più, ci saranno sempre più robot, e quindi si va verso quello, ecco. Sì, ha detto bene, già da qualche anno nei paesi sviluppati, ma in questi paesi poveri non esiste quel discorso, forse tra 50 anni se ci saranno ancora delle persone che riusciranno a sopravvivere. Perché io ho iniziato a vedere i Comau quando andavo a vedere gli stabilimenti, la Fiat all'epoca negli anni 80 era all'avanguardia mondiale come industrializzazione robotizzata, c'era un impianto a Cassino, era numero uno al mondo come robotizzazione, adesso c'erano tutte le fabbriche, ma all'epoca quando c'era ancora la Ritmo era la macchina al mondo con meno percentuale di esseri umani lavorativi, andava in questo stabilimento, faceva tutto il computer, il robot, a parte qualche piccoli particolari, dall'inizio alla fine era tutto costruito tramite computer, come si chiama, il robot. Adesso quasi tutte le macchine hanno, anche se a certi livelli stanno ritornando anche a utilizzare l'uomo, però all'epoca era di lì. Il futuro sarà quello che l'uomo sarà solo a controllare e a manutenere le macchine, però in quei paesi lì è quando arrivi. Ma infatti non so se l'hai sentito, ma tra poco, in tempi abbastanza corti, ci saranno enormi difficoltà, perché fino adesso si può fare già da oggi, però non si fa per paura, questa è la verità, perché io sicuramente saremo in grado di far produrre automobili, ad esempio, totalmente dai robot, dalla vite fino a mettere dentro la macchina sedili, a verniciarla, insomma da farla da zero quasi. Però poi nasce un problema, che è un problema che fa paura a tantissimi, anche alle stesse industrie, che è quello praticamente sociale, cosa le fa fare a tanti operai. E se è vero per noi, figurati in Cina, cosa significa? Continuano a utilizzare le persone, ma gli altri paesi utilizzano i robot e fanno cose più perfette, non hanno problemi di scioperi, e quindi si può immaginare che shock che potrebbe essere per popolazioni, milioni di persone che di colpo cosa faranno. E sotto questo profilo, secondo me, una demografia in discesa non può che essere un vantaggio, quindi fatto da meno popolazione. Sì, sicuramente non è un bene automatizzare cosa, ma già adesso i grandi capi, gli ingegneri, quelli lì, non ci vanno neanche più al posto di lavoro, col computer, e ti comandano tutto, ti organizzano tutto, non c'è bisogno neanche della presenza per fare certe operazioni di organizzazione, di produzione, eccetera, eccetera, da casa. Allora sono a Portocervo, in barca, attaccano, si connettono e ti fanno tutto quello che devi fare, ormai. E quello, ci sarà poi un blocco, che sicuramente poi non lo so neanche, cioè è una cosa troppo complicata da cercare di immaginare, perché non so se hai visto il film di fantascienza, però non è più fantascienza, è il robot che c'era Yul Brynner, non so se ti ricordi, un film anni 70, e c'è il rischio che succeda quello che è successo in quel film. Sì, ma siamo già in grado di fare quelle cose lì. pensa che già negli ospedali molti ospedali stanno sperimentando gli infermieri che passano per passare la terapia, per controllare la pressione, insomma piano piano fanno queste cose. Quindi la strada è quella, che piace o no, si andrà verso quello. Poi probabilmente qualcuno avrà anche l'idea di fare una bella guerra proprio per sfoltire un po' la popolazione. Ma tu stai parlando di robot militari, quelli già ce li hanno già, sono già belli che pronti, già dai droni, e poi ci sono anche i robot militari che non ci saranno, le guerre del futuro probabilmente verranno combattute dai robot. Oggi, non so se hai visto il telegiornale, hanno fatto vedere questo robot inglese, che è una donna, tu la vedi, è una donna, a parte gli arti un po' te ne accorgi, proprio una donna vera, con i capelli, con l'occhio che sembrava vero, con la cornea, tutto quanto, le pupille, eccetera, eccetera, l'hanno bloccato e l'hanno arrestato in Egitto, perché secondo loro era una spia. Ma tu vedi quanto l'ha fatto bene questo robot, è invece un robot capace di disegnare, ma disegnare delle cose, dei...